24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le tensioni che percorrono i mercati continentali dopo il nuovo declassamento della Grecia. Gli spread dei titoli italiani sono nuovamente balzati a livelli record, ma anche gli altri paesi periferici hanno sofferto. Pesante colpo per Mediaset, che dovrà rimborsare gli aiuti di Stato ottenuti per l'acquisto dei decoder dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Alta tensione in Kosovo, mentre la Norvegia tenta un ritorno alla normalità. Infine, tutte le anticipazioni sul prossimo Festival del Cinema di Venezia. Economia sempre in primo piano a 24 ore in Europa. Ieri si è chiusa un'altra giornata di fuoco per i titoli di Stato italiani, con lo spread balzato a oltre 330 punti e i tassi decennali in asta ai massimi dal 2000. È il mercato del debito europeo a soffrire più in generale. Lo spread dei titoli spagnoli ha sfondato i 350 punti, Irlanda e Portogallo viaggiano sopra gli 800, l'euro è sotto 1,43 dollari. L'Italia resta insomma al centro dell'attenzione dei mercati. E sentiamo ora come sono andate le borse. Il rimbalzo dei titoli finanziari e i buoni dati macro americani spingono Piazza Affari, che con un colpo di reni ieri ha chiuso in positivo. Se Parigi ha ceduto lo 0,57% e Francoforte lo 0,86%, a Milano il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,34% e lo Share lo 0,32%. Mediolanum ha guidato i rialzi con più 9,8%, un balzo legato ai dati semestrali in crescita diffusi mercoledì, quando il titolo era stato invece duramente punito dagli operatori, ma anche seguito ai ribassi dell'ultimo trimestre, durante il quale la compagnia assicurativa ha bruciato un terzo della capitalizzazione. Bene anche le principali banche, con Unicredit che recupera il 2,8% e Intesa San Paolo il 3,1%. Il caso del giorno in negativo è invece Finmeccanica, che crolla del 17,3% dopo la semestrale deludente e l'abbassamento degli obiettivi sul bilancio 2011. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sulle nuove tensioni che percorrono i mercati sentiamo l'intervento del professor Marco Giorgino, docente di economia al Politecnico di Milano. È un problema europeo, certamente è un problema europeo, però è un problema europeo che si scarica molto sulle nazioni dell'Europa che hanno qualche fondamentale più in difficoltà rispetto ad altre. Quindi non possiamo certamente equiparare la Grecia con l'Italia, però l'Italia ha i suoi problemi, ha i suoi problemi strutturali. Questo si sta avvertendo nel costo di rifinanziamento del debito. Lei citava il discorso dell'asta di oggi, che ha portato i rendimenti al 5,78%, e noi abbiamo la fortuna di avere un debito pubblico che ha delle scadenze medie molto lunghe. Mediamente il debito pubblico italiano ha una scadenza di 7,5 anni. Stiamo parlando di una tranche di rifinanziamento che era in scadenza e che è stata rifinanziata a un rendimento crescente 5,78. Questo non vuol dire che possiamo essere ottimisti, abbiamo ancora, diciamo, un po' di spazio per recuperare, però certamente si sta ponendo molto forte il tema del rifinanziamento del debito e quindi del costo crescente di questo rifinanziamento. In altri termini, il punto qual è? Che gli investitori italiani e anche molti investitori internazionali che vogliono comprare titoli di Stato italiani percepiscono un rischio crescente e quindi giustamente vogliono un rendimento crescente. Il programma di assistenza finanziaria da 78 miliardi di euro concesso al Portogallo da Europa e Fondo Monetario ha alleviato le preoccupazioni per la liquidità nel breve termine e dovrebbe accelerare il ritmo di riforme economiche e strutturali, lo afferma l'agenzia di rating Fitch. Continua però a scendere la fiducia nell'economia in Europa e nell'Eurozona. All'Italia va la maglia nera, con il calo più accentuato tra i 7 paesi più grandi. Nel mese di luglio l'indicatore che misura il clima economico è diminuito nel vecchio continente del 2,2%, in Italia del 4,5%, lo dice la Commissione europea. E ora una notizia molto importante per il mercato televisivo. Mediaset dovrà rimborsare gli aiuti statali ottenuti negli scorsi anni per l'acquisto dei decoder. La Corte di Giustizia Europea ha respinto l'impugnazione della società contro la decisione del Tribunale, che nel giugno 2010 aveva già respinto un primo ricorso di Mediaset, confermando la richiesta arrivata dalla Commissione per un recupero degli aiuti. Il contributo, aveva spiegato il Tribunale, costituiva un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri. E ora voltiamo pagina. Europa in allarme per le violenze in Kosovo. Sentiamo. Žarin, il principale posto di confine tra Serbia e Kosovo, che era stato dato alle fiamme ieri sera da estremisti serbo-kosovari, da questa mattina è sotto il pieno controllo delle truppe internazionali della KFOR. L'intesa, raggiunta in ottata tra i vertici militari della missione internazionale in Kosovo e le autorità di Belgrado, pone fine, almeno per ora, all'escalation di tensione che avrebbe potuto avere esiti gravissimi. Non a caso, due giorni fa, il presidente della Serbia, Boris Tadic, dopo aver condannato tanto le autorità del Kosovo, che avevano inviato ai confini le forze speciali di polizia, quanto le violenze dei serbi kosovari, aveva parlato del rischio che si scatenasse una guerra. La scintilla, vale a dire il presidio dei confini per impedire l'esportazione delle merci della Serbia, era stata interpretata da molti osservatori come un pretesto di Pristina di forzare la situazione, imponendo nuovi ostacoli all'avvicinamento di Belgrado all'Europa dopo la cattura dell'ultimo ricercato serbo per crimini di guerra. Elena Ragusin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio dell'Unione Europea ha intanto deciso di estendere il mandato del rappresentante speciale europeo in Kosovo, Fernando Gentilini, fino al 30 settembre. Prove di normalità in Norvegia, un paese ancora sotto shock per le stragi di Oslo e Utøya. Prove di normalità grazie soprattutto allo sport e al calcio. In una Norvegia ancora sotto shock, tra la paura di nuovi attentati e il legittimo desiderio di aumentare le misure di sicurezza, sarà il calcio, il gioco più facile del mondo, a provare la cosa più difficile, tentare di tornare alla normalità, almeno per un paio d'ore. Non sarà facile, ma si giocheranno regolarmente sia la partita di Europa League in programma ad Oslo, sia la Norway Cup, il più accreditato meeting mondiale di calcio per bambini, che da domani porterà nella capitale norvegese centinaia di giovani speranze del pallone. Prove di normalità, ma anche di leggerezza, per cancellare quello che è incancellabile. Speriamo di riuscire a regalare un sorriso al nostro paese, dice Armit Singh, centrocampista del Vålerenga, che stasera alle 19 affronterà il POC di Salonicco nella partita di andata del primo turno preliminare di Europa League. Una partita normale, col tifo, i popcorn, la voglia di vincere. Una partita di calcio, insomma, per non dimenticare, ma neppure restare ostaggi del terrorismo. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto gli esperti antiterrorismo europei, riunitisi a Bruxelles con i colleghi norvegesi, hanno deciso di rimettere sul tavolo a settembre una proposta della Commissione contro il rischio delle bombe fatte in casa. L'Italia si conferma uno degli stati europei con il più basso tasso di natalità. Tra i grandi paesi va peggio solo la Germania, lo rileva Eurostat. Nel gennaio scorso la popolazione europea era pari a 502,5 milioni. Le nascite continuano ad essere sostenute soprattutto in Irlanda, Regno Unito e Francia. Ora gli spettacoli, saranno 65 i titoli del 68esimo Festival del Cinema di Venezia previsto dal 31 agosto al 10 settembre, che avrà un record. Tutte le opere della selezione ufficiale saranno per la prima volta in prima mondiale, così ha spiegato il direttore Marco Müller durante la presentazione. 15 titoli italiani, di cui 3 in gara. Müller ha inoltre posto l'accento sull'importanza del mercato internazionale nel cinema europeo. Sentiamolo al microfono di Daniela Binello. Il grande cinema europeo quest'anno ci dice che anche nel nostro continente bisogna fare i conti con il mercato internazionale, quindi molti dei film europei più importanti, quelli che ritroviamo in concorso per intenderci, sono diventati dei film di lingua inglese anche quando sono realizzati da registi non di lingua inglese. Però la cosa più importante credo che sia il cinema europeo è fatto anche di autori non europei che ormai lavorano stabilmente nei nostri paesi. Marjan Satrapi è una cineasta europea, eppure viene dall'Iran. Il cinema europeo, non so poi che cosa voglia dire un cinema inteso a livello continentale se non la somma delle diverse situazioni di ciascun paese, però è un grosso laboratorio dove appunto le frontiere, un po' come con la creazione dell'euro e dell'Unione Europea, in qualche modo le frontiere sono state abbattute, c'è una grossa circolazione di talenti. E ora lo sport, calcio per cominciare. Momo Sissoko e Salvatore Sirigu firmano con il nuovo e ambizioso Paris Saint-Germain di Leonardo. Per Sissoko un contratto di 3 anni per 7 milioni di euro più 1 milione di bonus. Sirigu è stato ingaggiato per i prossimi 4 anni, il suo contratto è stimato intorno ai 3,5 milioni di euro. Ai mondiali di nuoto di Shanghai, l'asso Michael Phelps ha ancora sconfitto da Lochte nei 200 misti, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo. L'australiano Magnussen vince il titolo sui 100 stile libero. Nella pallanuoto maschile, finale tutta europea tra la Serbia, che ha battuto 15-14 l'Ungheria, e l'Italia, che ha superato la Croazia 9-8. Anche la Volkswagen, o almeno uno dei suoi tanti marchi, un giorno potrebbe sbarcare in Formula 1. Un giorno che, come dimostrano le parole di Wolfgang Dreimer, dirigente di Bentley e Bugatti e direttore del settore corse del gruppo automobilistico tedesco, potrebbe essere ancora lontano. Posso immaginare un impegno in Formula 1 nel 2018, ha affermato. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.